Nanni, ascolta Guido Piano, una trasmissione indie. Indie? Non è il concetto, non è il concetto, sono le parole. Sabatino! Come parla? Le parole a Guido Piano sono importanti! Guido Piano.